fazzoletti bianchi che saludano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile. Avere fra le braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra che odore di vento, come tu vuoi innamorarmi in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene.